Adesso vogliono che registri. Lo farei, però. Non lo so. Una volta che registri, tutti quanti ti possono copiare. Ti rubano le idee. Ma come? Tu fai una cosa bella. È uno stronzo qualsiasi della copia. Eh? No. Oh,